Silenzio in aula, entra il giudice Salviati. Comodi, comodi, prego, seduti, grazie. Casa 23, 25, 20, 11. La parola all'avvocato Poprivia. Grazie avvocato e complimenti per la visione. Signor giudice, signore della corte, gente del pubblico che ci segue in differita, anche su TV come fanno i consigli. Oggi ci disputiamo una causa che ci farà finire sui giornali, tranne che su Calabria Ora. Ricordiamo che la causa tocca la Chiesa, quindi vino veritas ad maiorum, abundantis abundanzia. Avvocato, ricordo che il suo cliente si sono bagnata dopo la fine della messa. Signor giudice, signore della corte, eccetera, eccetera, il mio cliente ha avuto forse qualche santo motivo. Lei è mai stato in chiesa? Risponda, giudice! Risponda! Risponda! No. Ah, grazie! Ecco! Ma lo sa che fastidio è in chiesa? Alzarsi, sedersi, alzarsi, amen, eccetera, eccetera! E poi cosa sono queste buffonate delle canzoni in chiesa? Che siamo a Sanremo, 80 minuti d'alleluia e 10 di messa effettiva! Ecco! Secondo la cosa il suo cliente ha agito con premeditazione dopo essersi rifiutato di confessarsi. E te pare bello che tu commenti i fatti tuoi con il prete? E se al posto del prete metti caso che era come il commissario avvocato, c'era il Ragusa con il pirequino e ti sgamava? E poi anche il prete dovrebbe approfittare dei momenti liberi di domenica, l'unico giorno libero per stare con suo figlio. E con questo ci siamo capiti, signor giudice. Non siamo qua a sindacare il prete di Lombagnoffa. Sì, intanto se non mi dava la faccia mi fanno una cortesia. Ma se noi condanniamo quest'uomo, reo di aver ucciso il padre vero dei suoi figli, dunque prete, che dire di questi che abbandonano i cinesi imbacchiusi in autostrada? Che dire di questi che guardano i dati Auditel e non pensano minimamente allo share? Che dire di questi che criticano Antonio Conte e lo intimano di ammutarsi in banchina e lui niente e continua a vincere? Applauso! E che dire di questi che vogliono evitare l'emigrazione delle rondine? Perché una rondine non fa primavera, signor giudice. Vai, vai. Avvocato, sta aggravando la posizione del suo cliente e poi non tutta questa cacciata, applausi, che si intende uno spettacolo di Babbalavuffo. Qua, c'è una prima, c'è una... Comunque la posizione del suo cliente è stata aggravata, come ho detto prima. A casa sua hanno trovato l'arma. Giudice, giudice, oggi mi stupisce. Sei peggio di Mitsubishi. Oh, oh, oh. Chi di noi non ha in casa una balestra di precisione modella Mazzoni? Ma zitto pubblico! Chi di noi, stavo dicendo, non me... e poi perde il segno della ringa. Chi di noi non ha in casa una balestra di precisione modella Amazzonia? Ma chi siamo noi? Per dire chi è mille, chi sono le bolle e chi sono i blu! Chi siamo noi? Per non citare l'ottimo caseificio Roberti dove si mangia anche curi e cavoli anche di sabato. E chi siamo noi? Qui cambia... Ma non li voglio! Babbo! E chi siamo noi? Qui cambia anche il copione per dire se la musica è ok, il prezzo è giusto, sia psichedelica! Questo lo so solo io! E c'hai ragione, Giulio! Visti lo stico! Provato! Ora abbiamo finito! È stato del copione! Ecco, vabbè, bisogna. Cioè, laggiù! Lei, giudice, sa che quando incomincio con le tattiche dopo una nottata. In poche parole, io chiedo la soluzione piena per il mio cliente. Secondo il codice Hammurabi, in quanto occhio per occhio e dente per dente. Oh, secondo il codice cristiano, Don Bagnotto da lassù l'ho già perdonato. Ma sei capodì! Giù, ma avvocato, ma non lo sa che rompe le scatole quasi a tutte le udienze? Zitto! Io lo aspetto fuori! Lo metto in galera! È un stranger pubblico ufficiale! Si stia zitto e seduto! Seduto! Basta! Non è ammessa! Basta! Oh! Basta! Visti gli articoli 472 e 544! E il 37 del codice penale questo tribunale condanna il suo cliente. Per modo di dire cliente, soldi di pigli. Mi augura per questo capivo, perché forse la causa è perde. Comunque, condanno il suo cliente all'ergastolo! Ma come all'ergastolo? Quando mi è mancato il caro cliente titolare, grazie, grazie. Zitto comunque, che ti è andato anche bene. Non lo sanno che ti sei fottuto anche d'autobotti di autosantizia da sé, di acqua santa al luogo, e ti sei anche venduto le ostie, so, e vai! Giudice, il bene, ignorante! E vai, perché è scritto e vai! No, il bene, si dice, ignorante! Io dico vai perché sono cosenza, tu zitto cliente e vai al mercato! Faccio male! Cominci di sinotosciato! Faccio uso!